noi registriamo dal nostro punto di osservazione, cioè dei nostri, nei bar, nei ristoranti che gestiamo, che ovviamente non sono esaustivi di tutta la panoramica, ma dal nostro punto di vista noi registriamo una situazione a dir poco drammatica. Abbiamo cali che vanno dal 40 al 60 al 70% degli incassi giornalieri e decine di persone che impieghiamo e che sono dipendenti, e se questa situazione prosegue a lungo, e quando intendo a lungo intendo più di una settimana, questo si tradurrà immediatamente in un grossissimo problema di tenuta delle imprese, dei livelli di occupazione, e questo timore, questa paura ci ha spinto a prendere una posizione forte, penso, sebbene anche ragionevole nei termini e nei contenuti, che è quella di dire non si può affrontare una malattia e un'emergenza azzerando nel contempo la vita sociale e economica di un paese. Tra come dire, le richieste che avanzate ce ne sono diverse, alcune che riguardano anche non direttamente come dire il vostro settore, ma avete notato come il problema sia anche la gestione, la tenuta diciamo del sistema sanitario. Ma assolutamente, si legge da più parti che queste misure vengono fatte per rallentare la diffusione del virus e dunque dare modo alle strutture sanitarie, come dire, di poter intervenire e curare le persone che a mano si contagiano senza mandare in tilt il sistema sanitario. Nessuno però dice la cosa più ovvia di tutte, che bisogna potenziare le strutture sanitarie, che bisogna potenziare gli ospedali. Certo, rallentiamo il virus, ma è del tutto evidente che il virus, come tutti i virus, si diffonderà e si diffonderà ovunque. Qua c'è un problema. Il problema è una sanità debole che ha subito 30 anni di tagli e che oggi si trova a dover affrontare un'emergenza non nelle migliori condizioni. Eppure nessuno dice la cosa più ovvia, che bisogna investire di più nella sanità pubblica. Invece per quanto riguarda la vostra categoria, nello specifico cosa chiedete? Nello specifico chiediamo che ci siano che bisogna attivare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori e le lavoratrici, anche per le aziende che hanno pochi dipendenti. Chiediamo che ci siano anche degli interventi da parte del governo per garantire la liquidità stessa delle aziende. Non basta sospendere le tasse o sospendere i mutui, perché sospendere non significa cancellare, sospendere significa solo posporre, rimandare, ma se gli incassi diminuiranno così a lungo e così tanto come stanno diminuendo ora, la soluzione non può essere sospendere, bisognerà garantire una liquidità con dei fondi che possono essere insomma dati in forme diverse. Adesso non sta a noi fare questa proposta, a noi sta a segnalare questo problema gravissimo che è già presente.